Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti con il programma fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con quella che è la sigla iniziale di questa trasmissione. Bene, questo era il brano sigla di inizio di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine e andremo avanti fino alle ore 21:30. Ricordo che oggi è 18 luglio, giovedì ovviamente, e sì, 2024. Quindi non siamo in fase di registrazione, insomma, di qualche anno fa, ma ricordo anche che questa trasmissione viene trasmessa grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questo album, anzi presentiamo, credo, in diretta, cioè ovviamente in diretta perché lo siamo in diretta, ma presentiamo come dire, credo tra i primi a mandare in onda via radio questo album di una band di della zona tra Alessandria, La Spezia e anche Modena. Comunque, al di là di quello, loro sono i Drunkards e questo è il loro album che si intitola Inferno sulla Terra, album tutto loro, uscito adesso a metà luglio. E quindi sarebbe da fare anche la classica battuta fresco fresco, ma essendo oggi 18 luglio con oltre 30 gradi all'esterno di questa radio, non è nemmeno tanto fresco. Comunque, album uscito in questi giorni, loro sono i Drunkards. Got it. Siamo ancora all'ascolto di questi Drunkards, il loro ultimo album uscito in questi giorni, Inferno sulla Terra, band che sarà formata all'incirca metà anni 90, e questo appunto è finalmente un loro album completamente su vinile di questa band della zona di Alessandria. Oh, Un saluto speciale anche da parte mia a tutte voi e tutti voi che ascoltate anche stasera Radio De Furlane, che ci ospita sui 90 MHz. Questo è Zardins Magnetics, abbiamo già fatto i titoli di testa. Da parte mia solo un saluto in particolare a chi ha il privato della libertà personale e chi ha subito repressione, chi ha i fogli di via, chi ha così gli avvisi orali, chi si trova ai domiciliari, chi si trova ristretto in qualche struttura parapsichiatrica, qualche per forza. E un saluto speciale a chi dovesse ascoltarci da qualche galera. Ecco, solo per dirvi questo primo intervento a voce che stasera cercheremo di fare così un panorama, una, possiamo dire, un giro, ecco. Su delle tematiche che comprendono, insomma, che consistono sul problema del pacifismo, ecco, come abbiamo messo nella promozione che pubblichiamo settimanalmente sui nostri canali, quindi sul pacifismo, il problema del pacifismo per chi, insomma, si riferisce a un punto di vista, a un modello, a un paradigma anarchico libertario, e da lì poi, insomma, più un ragionamento su quello che è uno Stato, su quello che sono gli stati, le cosiddette democrazie moderne. Parleremo del Coroneo e poi così annesse e connesse considerazioni varie per questa puntata di Zardins Magnetics del 18 luglio. Ancora un po' di musica. Consumo il mio passo in Bene, sfumiamo questi Drunkards, che come già detto prima, dal loro ultimo album appena uscito, Inferno sulla Terra, passiamo a questa band invece direttamente dalla Russia. Loro sono i Siberian Meat Grinder e questo è il loro album datato 2017, Metal Beer Stomp. Quindi Siberian Meat Grinder. Eccoci di nuovo, quindi partiamo con i contributi in voce per questa sera. Dicevo prima, problema del pacifismo, per chi insomma, si riconosce, per chi si, insomma, sta in una prospettiva anarchica, in una prospettiva libertaria e cerca di appunto far coincidere il contesto della propria vita con determinate, insomma, prospettive etiche di uguaglianza e di umanesimo radicale, detta così molto in sintesi. Per farlo useremo un testo un testo di molti anni fa di Alfredo Maria Bonanno, un testo che si intitola La guerra e la pace. Questo testo fu pensato, insomma, fu pubblicato nel 1982 in una raccolta, penso, che si chiamava Elementi per la ripresa di una pratica anarchica dell'antimilitarismo rivoluzionario, Forlì 1982. Poi, insomma, svariate ripubblicazioni, sia Nautilus 91 sia appunto questa da cui prendiamo, che è invece una raccolta di cui è stata fatta una ristampa, possiamo dire, insomma, scomparsa di Bonanno avvenuta, perché questa edizione, appunto, del marzo 2024. Alfredo Bonanno, ricordiamo che è mancato in dicembre 2023, aveva 87, 88 anni, non mi ricordo. Premessa: usiamo sì questo testo, noi magari lo usiamo e poi facciamo dei, come ci vengono, dei commenti su questi estratti che abbiamo scelto, dei commenti, insomma, di quello che vedremo, ecco, quello che emerge. Premessa ulteriore che volevo farvi, che può servire quando si affrontano gli scritti di Bonanno: per Bonanno la vita, l'esistenza è una questione qualitativa, cioè secondo la sua prospettiva ogni ostacolo che si pone alla realizzazione dell'esistenza, insomma, in maniera piena, in maniera vitale, in maniera autentica, è un ostacolo da affrontare con determinati metodi, con determinate metodi, appunto, adeguati ai fini che si vogliono raggiungere. Questo è per lui porsi in maniera, appunto, libertaria, anarchica. Adesso lo dico io, con le mie parole, non con le sue, di fronte, appunto, all'esistenza. Non è una questione di programmi, di ragionamenti collettivi, di realizzazioni, appunto, di programmi teorici. La teoria e la prassi si scambiano continuamente dentro questa prospettiva, che è qualitativa, ripeto, non è un discorso dove il quantitativo è messo da parte. Allora, questo testo, La guerra e la pace, dicevo prima, inizia così: gli ultimi anni si sono sempre più caratterizzati per una presenza costante nella pubblicistica di ogni tipo, compresa quella anarchica, sul tema della guerra. La guerra si avvicina, sta per scoppiare. I due grandi blocchi internazionali contrapposti si stanno indirizzando verso la guerra. Facciamo di tutto perché non scoppi, facciamo di tutto perché il mondo non vada in malora, distrutto dalle fondamenta a causa delle pazze velleità dei nostri governanti e dei loro sciocchi servitori. Come spesso accade, quando affrontiamo un argomento che scatena fin nel nostro intimo una complessa reazione di sentimenti e paure, non siamo stati, almeno mi pare, in grado di approfondire adeguatamente il problema nei suoi aspetti sia pratici che teorici. Allora, appunto, 82, sappiamo benissimo, cioè sappiamo, io lo so perché me lo ricordo, i due blocchi di cui si parla era blocco sovietico, blocco atlantico, diciamo, oggi si chiama atlantico, era americano quella volta, e ancora adesso, ma insomma si capisce meglio dicendo atlantico, perché la nostra epoca è fatta di multipolare, invece a quell'epoca era strettamente bipolare, da una parte Brezhnev, dall'altra parte Ronald Reagan. Qual è il problema? Noi appunto, di fronte a questa paura scatenata dal potenziale scoppio della guerra atomica nucleare, siamo paralizzati, perché non abbiamo capito sostanzialmente di che cosa si sta parlando, che cos'è la guerra. Cioè, certo, sappiamo una guerra nucleare, ci immaginiamo che cos'è, ma non abbiamo definito ancora in maniera chiara che cos'è la guerra. Continua. Per le idee padronali non si tratta tanto di mancanza di chiarezza quanto di interessi grossolanamente evidenti. La guerra rappresenta per le classi dominanti un mezzo per garantire, dentro certi limiti, la continuazione del dominio. Ma per chi si pone contro il dominio, cosa significa la guerra nella sua spaventosa concretezza? Per i padroni, la guerra è una semplice accelerazione nell'impiego di mezzi che sono praticamente in corso di applicazione da sempre. Gli eserciti esistono, le bombe ci sono, le armi pure. Le guerre sono in atto ininterrottamente, da sempre, scoppiando qua e là, secondo una geografia e una logica che seguono le regole dello sviluppo e della sopravvivenza del capitale. I padroni non hanno grandi problemi analitici da risolvere. Essi non possono scatenare la guerra per il semplice motivo che non hanno mai smesso di farla. Per coloro che intendono lottare contro la guerra, la cosa è diversa. La loro lotta, infatti, si dispiega attraverso un ventaglio di interventi e di azioni che sono realizzabili solo in funzione della propria capacità di svelare il meccanismo che regge il fenomeno della guerra. Come si spiega che i governanti trovano sostenitori e realizzatori della loro follia? Cioè, come si spiega il consenso di fronte appunto invece all'idea di guerra che hanno padroni e stati? Come si spiega questo consenso? Si spiega col fatto semplicissimo e fondamentale della divisione di classe. È evidente che la guerra non fa paura a tutti, oppure non fa paura a tutti nello stesso modo. È chiaro che molti, vicini alle leve del dominio e legati allo sfruttamento, se non padroni o dominatori stessi, si fanno passare la paura della guerra con la prospettiva del rafforzamento della propria situazione di privilegio. Come si è detto, siamo tutti contro la guerra, a parole. Bisogna fare di tutto per impedire la guerra e spesso si finisce per convincere la gente che dovendo fare di tutto si può anche fare la guerra per impedire una catastrofe più grossa. Allo scoppio della guerra, che per prima si chiamò mondiale, quindi 1914-18, Kropotkin, Grave, Malato e altri illustri anarchici giunsero alla conclusione che bisognava partecipare alla guerra per difendere le democrazie, francesi in primo luogo, attaccate dagli imperi centrali, Germania in primo luogo. Questo tragico errore fu possibile, e sempre sarà possibile, perché si fece allora la stessa considerazione che si va facendo oggi. Non si sviluppò un'analisi anarchica, ma ci si affidò a una rielaborazione anarchica delle analisi fornite dagli studiosi e dai divulgatori al servizio dei padroni, per cui si arrivò alla conclusione che la guerra restava sempre una tragedia immensa e terribile, ma era da preferirsi al più grave danno che sarebbe venuto da una vittoria del militarismo teutonico. Ecco, allora si ricorre anche nella pubblicistica, diciamo, di area anarchica a così affermazioni generiche come fraternità universale, umanità, pace, civiltà, eccetera, eccetera. Come mai succede questo? Il fatto è che ricorriamo a questi luoghi comuni che hanno come denominatore il concetto di paura perché non sappiamo cosa fare, né cosa dire, né cosa sia in realtà oggi, nell'attuale situazione politica italiana, europea e mondiale, il fenomeno della guerra. Ecco, dopo ancora un po' di musica andremo avanti con questo articolo, La guerra e la pace. Per non perdere il filo, allora facciamo rapidamente un riepilogo di questo La guerra e la pace di Bonanno. Allora, nella pubblicistica anche anarchica, secondo Bonanno, si compie un errore, cioè ci si mette a un errore teorico, cioè non si sviluppa anarchicamente l'analisi, ma si masticano dei concetti non anarchici, imbandierandoli con le spille, con i tatuaggi anarchici, da contenuti che però sono filo padronali, filo statali, quindi i luoghi comuni di umanità, i luoghi comuni appunto di pace, di fermare il conflitto. Perché appunto tutto questo succede perché la guerra crea panico, oltre che terrore, anche panico, anche paralizza quindi la capacità di analisi. E questa cosa qua non è casuale, nel senso che sono proprio i padroni e e chi li difende, cioè gli stati, a utilizzare questa tattica per sviare dal fenomeno dello sfruttamento, che è primario, insomma, lo sfruttamento di tutti, appunto, degli sfruttati, dei non, degli esclusi, e anche in seconda analisi anche per prepararli alla guerra, per appunto utilizzare questa paralisi per sperimentare, insomma, l'obbedienza più estrema, l'annientamento, insomma, la capacità critica, eccetera eccetera. Se noi cadiamo in queste argomentazioni generiche e in questi luoghi comuni, in questo, diciamo, pacifismo mascherato da neutralità, da imparzialità, da non si può cadere nel insomma nel dividersi, non si può, eccetera eccetera, che riassumiamo con pacifismo, con anche rifiuto della violenza, no? Come, diciamo, come propedeutico, questo come requisito base, noi cosa facciamo? Cadiamo, ci collochiamo all'estrema sinistra del capitale, praticamente, cioè in quel dispositivo che serve ad attenuare il dissenso, a sviluppare il recupero, a dare voti a certi partiti anche attualmente che si chiamano Alleanza Verdi Sinistra, a mandare avanti consiglieri, insomma, negli enti locali, nei consigli regionali, eccetera eccetera. Invece qual è il compito nostro, compito degli anarchici e delle anarchiche? È spezzare questa cortina di irrealtà. Lo vediamo adesso, insomma, andiamo di nuovo, torniamo alla lettura di questo Guerra, la guerra e la pace. Allora, dice appunto, ci trasformiamo in dilettanti studiosi di problemi internazionali, facciamo tutte le analisi, insomma, come se fossimo Repubblica o l'Espresso, non ci rendiamo conto che così facendo risultiamo funzionali a quella parte dello schieramento padronale che oggi gioca proprio sulla paura per ottenere due risultati fondamentali. Primo, distogliere l'attenzione delle masse sfruttate dal sempre più pesante sfruttamento che le aspetta. Beh, è importante qua, perché anche l'intuizione che ha avuto Bonanno nell'82, che lo sfruttamento era si stava intensificando, cioè non era una cosa statica, permanente, lo sfruttamento, no? Un concetto così, che di giorno in giorno, di anno in anno, lo sfruttamento sarebbe stato sempre più intenso. Distogliere l'attenzione delle masse sfruttate dal sempre più pesante sfruttamento che le aspetta e prepararle, perché no, proprio alla guerra. Non dimentichiamo che il modo migliore di spingere all'accettazione di una guerra è quello di diffonderne la paura. Domani, con pochi sapienti aggiustamenti nella propaganda di regime, questa paura della guerra totale si trasformerà facilmente nella voglia e nel desiderio di accettare una guerra limitata per impedire la guerra totale. E chissà che non si trovi un novello Kropotkin fra i tanti neokropotkiniani che infestano i nostri fogli anarchici. I bersagli sono sempre gli stessi, non li ripetiamo, insomma, capace di sostenere la necessità della piccola guerra di fronte alla guerra totale, dopotutto piccolo e bello. Spieghiamoci, per gli stati esistono aspetti ufficiali che scandiscono la differenza tra stato di guerra e stato di pace sul piano del diritto internazionale. Ecco, adesso andiamo ad affrontare proprio il fenomeno. Cioè, si tratta di una finzione giuridica. Esistono quindi aspetti ufficiali che scandiscono la differenza tra stato di guerra e stato di pace sul piano del diritto internazionale. È ovvio che questo tipo di differenza non può interessare gli anarchici, i quali, per cogliere una situazione reale di guerra, non dovranno aspettare che sia lo Stato A, tramite una sua diplomazia, a consegnare una dichiarazione di guerra allo Stato B. compito degli anarchici è principalmente quello di spezzare per quanto possibile e per il maggior tempo possibile la cortina ufficiale che gli stati stendono davanti agli occhi dei popoli per sfruttarli, ingannarli, portarli al macello. Per fare ciò, quindi, non possiamo aspettare che le formalità del diritto internazionale siano compiute. Dobbiamo precorrere i tempi e denunciare la situazione reale di guerra anche quando non esista uno stato di guerra ufficialmente riconosciuto. Anche studiosi contemporanei si sono resi conto del problema e hanno cercato di cogliere l'elemento che consente una differenziazione, sia pur minima, tra stato di guerra e stato di pace. Dopo l'esame degli elementi caratterizzati dalla conflittualità armata, dai fenomeni di massa, dai processi di tensione dell'opinione pubblica, tutti elementi che non sono specifici dello stato di guerra soltanto, questi studiosi hanno dovuto concludere che ciò che caratterizza la guerra è il suo carattere giuridico e che questo carattere risulta essere atipico nei confronti della struttura giuridica che regola gli stati belligeranti in tempo di pace. In altre parole, la guerra risulta caratterizzata dalla legittimazione a uccidere, legittimazione realizzata attraverso la sfera giuridica che di regola, in tempo di pace, non tutela né l'omicidio né la strage. Lo Stato è strumento di sfruttamento e di morte, quindi è strumento di guerra. Dire Stato significa dire guerra. Non esistono stati in guerra e stati in pace. Non esistono stati che vogliono la guerra e stati che vogliono la pace. Tutti gli stati, per il semplice fatto della loro esistenza, sono strumenti di guerra. Per convincersi di ciò e per superare l'obiezione di chi ci accusa di facile massimalismo, basta pensare al fatto ovvio che non saranno il numero dei morti, la specificità dei mezzi usati, il terreno dello scontro, lo scopo dei belligeranti si prefiggono a determinare una differenza tra lo stato di guerra e lo stato di pace. Uccidere sistematicamente una decina di lavoratori al giorno sul posto di lavoro è fenomeno di guerra, che soltanto dal punto di vista del numero differisce, per quanto ci riguarda, dai morti che si rinvengono a migliaia su di un campo di battaglia. Sotto questo profilo non esiste possibilità di individuare una situazione reale di pace sotto il regime del capitale, ma soltanto un fittizio stato di pace che equivale in pratica a una situazione reale di guerra. Concludiamo questo paragrafo, poi magari diciamo due parole. La guerra è quindi un'attività dello Stato che non caratterizza un periodo transitorio e circoscritto della sua esistenza, ma costituisce l'essenza stessa della sua struttura per quanto noi ne possiamo avere cognizione attraverso l'esperienza dei processi di sfruttamento. Cadono così le illusioni socialdemocratiche del disarmo unilaterale, del pacifismo perbenista, della non violenza borghese. Chi sostiene soltanto la tesi del pacifismo e con ciò si batte per impedire che lo Stato scateni una guerra è sostanzialmente un reazionario che sostiene la guerra costante dello Stato preferendola a un'altra guerra, per lui diversa, ma che in sostanza non ha nulla di diverso, essendo praticamente un'estensione del conflitto su scala leggermente o notevolmente più ampia. Ecco. Da parte no, ecco, poi conclude veramente le ultime... l'ultime due pagine, dopo aver insomma nominato i suoi bersagli, che era Umanità Nova, ovviamente, naturalmente. E se il livello della pubblicistica anarchica è paurosamente basso, se gli stessi libri anarchici si diffondono sempre meno all'interno del movimento, c'è da chiedersi: l'accettazione della tematica della guerra anche da parte nostra e la mancata giusta collocazione di questa tematica all'interno della logica specifica dello Stato non è forse una conseguenza della nostra sopravvenuta incapacità di indirizzarci verso la realtà delle lotte? No, io volevo solo dire, comunque, finito, non ho detto, cioè ho dimenticato di dire questa ristampa del libro, cioè trovate questo articolo La guerra e la pace nella ristampa del libro di Buonanno, Palestina Mon Amour. Sì, è una raccolta, come sempre, consistente di interventi molto vari, dal breve insomma alle decine di pagine, che racconta un po' il rapporto che ha avuto Buonanno con la lotta palestinese, che per lui è una lotta, soprattutto una rivolta fatta, insomma, si riferisce anche all'intifada degli anni, fine anni 80. Buonanno è stato anche in Palestina qualche, insomma, manciata di anni prima, all'inizio degli anni 70, ha subito una tortura dal Mossad. In questo libro anche, contiene anche questa una riflessione, una, diciamo, confessione su che cosa, su questo fenomeno che è la tortura, come, insomma, è possibile parlarne per Buonanno, naturalmente dal punto di vista suo, come posso dire, individuale, individualmente. Torniamo a noi, quindi, dice Buonanno, il fenomeno di guerra non ha necessità di essere dichiarato, ecco, il fenomeno della guerra non ha necessità di essere dichiarato, non esiste di fatto una situazione di non guerra dentro la realtà capitalistica. Il fatto che gli stradini lavorino, facciano l'asfalto, è una cosa quotidiana che vediamo con 40 gradi, questo qua vuol dire mandare la gente a ammazzarsi. Il fatto che di cambiare discorso continuamente e dire che esiste una cosa che si chiama caporalato, e quindi poveri braccianti indiani muoiono per colpa dei cattivoni caporali, questo qui è ancora un fenomeno di propaganda militare, perché nasconde la realtà, insomma, cerca di diffondere il panico, quando appunto le cose stanno in maniera diversa. Compito degli anarchici è cercare di spezzare questa cortina con i loro metodi, con le loro possibilità, che sono note, che sono molto, insomma, quantitativamente irrilevanti, ma ripeto quello che avevo detto all'inizio, il discorso, il ragionamento parte da una prospettiva qualitativa, il quantitativo qua è irrilevante per una volta. E dunque la conclusione è che la guerra è un carattere permanente e fondamentale dello Stato e non è un fatto transitorio che a volte c'è, a volte non c'è, è un pilastro dello Stato. comincia a suonare, avete orecchie per il rumore, non vi fermate ad ascoltare la mia denuncia, il mio dolore. La musica morirà, la musica morirà. Bene, sfumo un po' questo brano, anzi lo teniamo in sottofondo. La band che stiamo ora ascoltando sono gli Eusars, band storica del punk hardcore nazionale, ma non solo, comunque dei primi anni 80. È una band di Udine che appunto circa 20 anni fa si era riformata e ha fatto uscire questo album che si intitola semplicemente 2008, e nient'altro da aggiungere se non appunto questo brano. Anzi, vabbè, ormai stiamo ascoltando questo brano che è un rifacimento appunto del loro primo 7 pollici, che era datato 1982, e appunto questo è il brano che si intitola Europars. Eccoci qua di nuovo in voce, voltiamo pagina, passiamo al Coroneo. Giovedì sera, mentre andavamo in onda, era ormai stata più o meno sedata una rivolta al carcere Coroneo a Trieste, appunto scoppiata, ne hanno parlato insomma i giornali nazionali, diamo per scontato quello che è stato diciamo diffuso, non solo nei giorni seguenti è emerso che un detenuto è stato ritrovato privo di vita dentro la galera. Vi do lettura di questo volantino che si intitola Trieste, rivolta nel carcere del Coroneo. Ancora una volta la rivolta carceraria viene messa a tacere con le botte, il sangue e la morte. Dopo il marzo 2020, in cui 14 persone sono state brutalmente ammazzate dalle forze dell'ordine in seguito alla rivolta nel carcere di Modena, anche a Trieste, nel carcere di Via Coroneo, giovedì 12 luglio 2024, la rivolta viene soffocata con la violenza e si conclude con la morte. Per le veline della questura c'è lo stesso copione: assalto all'infermeria e morte per overdose. Grida, fiamme e umane rivendicazioni vengono silenziate nel buio della notte dietro a quelle sbarre, quelle mura dove più che mai è evidente che alcuni esseri umani valgono più di altri, dove la differenza di classe resta una prerogativa, dove sfruttati e sfruttate vengono rinchiuse e rinchiuse per ribadire qual è il loro ruolo in questa società capitalista che spreme, uccide senza alcuna remora, finanzia guerre per i suoi interessi economici, distrugge boschi e foreste, mari e oceani, sterminando popolazioni umane e animali. Carceri, CPR, REMS diventano luoghi banali della reclusione penale e amministrativa, dove ammassare e rinchiudere chiunque decida o sia costretto a vivere fuori dalle sue logiche o di lottare per distruggerla. Fabbriche di una subumanità non soltanto espulsa dal mondo comune, ma mutilata e distrutta, abbandonata e al contempo esposta come tributo pagato allo Stato. Eppure, all'interno del discorso securitario che oggi prospera, lo Stato è ben lontano da averla fatta finita con le classi pericolose, con la plebe indocile, incontrollabile. A confermarlo ci sono le 5 rivolte nelle carceri italiane avvenute nell'ultima settimana. Anche a Trieste il caldo è soffocante, raggiunge i 40, e i nidi di vespe impediscono di aprire le finestre. Cimici dei letti e ratti sono insopportabili inquilini e i ritmi e i bisogni della vita quotidiana vengono imposti da chi esercita il potere: televisione, psicofarmaci, l'aria, la socialità, i colloqui. È inutile che la garante dei detenuti di Trieste cerchi di leccarci il culo, sostenendo di essere dalla loro parte e dalla nostra parte. È inutile che il vescovo sprechi vuote parole di vicinanza o che qualunque di simili false figure si riempia la bocca di futili parole di circostanza. Sono tutti e tutte complici di questo sistema, della sua brutalità e dell'orrore che è la reclusione. La questione non è sapere cosa fare del carcere, come migliorarlo, riformarlo. Si tratta invece di domandarsi come sbarazzarsene al più presto. La nostra solidarietà e vicinanza va a chi si è rivoltato e chi si rivolterà finché le sbarre, le mura di tutte le prigioni verranno distrutte, perché l'unica soluzione ai problemi delle carceri è eliminarle. Il conto ci è stato presentato adesso, tocca a noi saldarlo, per la lotta e per la libertà. Solidarietà con tutti i detenuti e con tutte le detenute in lotta. Anarchici e anarchiche, Deterst. Yeah. Stiamo ascoltando questa band di Toscana, della zona di Firenze. Loro sono in Nicotina, band che si è formata a metà anni 90 e per quasi un decennio ha suonato, per poi insomma riformarsi credo in questo ultimo decennio, ma ha avuto alti e bassi, e comunque è per certo che esiste ancora, ve lo garantisco. E questo è un loro 7 pollici, uno split comunque che si chiama Nato per essere sfruttato, Nicotina. Solo per dire che, a proposito del Coroneo, domani, per chi ascolta in diretta, ovvero venerdì 19 luglio, a partire dalle 18.30, in via del Coroneo a Trieste, quindi sotto le mura del carcere, ci sarà un presidio di solidarietà con i prigionieri e le prigioniere del Coroneo che si sono... rivoltate, che hanno appunto protestato e hanno si sono insomma preso possesso del di un'ala del di una sezione del del carcere della prigione triestina del Coroneo. Quindi venerdì 19 luglio ore 18.30 chi può ci sia insomma al alla presenza solidale fuori dalle mura del carcere del Coroneo. Senza tregua. Ecco, mentre siamo agli sgoccioli anche di questo giovedì sera per Zardis Magnetics, un ultimo, così velocemente, un ultimo contributo per chiudere così un po' il percorso che abbiamo fatto stasera. Siamo partiti da Bonanno, la guerra e la pace, quindi critica del pacifismo, analisi insomma rigorosa, anarchica, rigorosa del contesto Stato-democrazia moderna. Abbiamo letto un volantino rabbioso su quello che è successo dopo la rivolta del Coroneo, ovvero la morte di un cosiddetto detenuto comune che era in attesa di giudizio, tra l'altro trovato senza vita, cittadino sloveno di Nova Gorica, suo nome era Zdenko. Concludiamo con questo, così di nuovo torniamo alla teoria. Requiem per l'Occidente, scrive la sua rubrica Una Voce Giorgio Agamben, una certa età anche lui, comunque non la leggiamo tutta, ma io trovavo così interessante questo discorso che fino al 1970 il messalino della messa, diciamo quando si va a messa, prescrive per il funerale anche il Dies Irae. Dopo è stato tolto questo Dies Irae. Allora, questa scelta, scrive Agamben, era perfettamente conseguente col fatto che il termine stesso, Dies Irae, definiva la messa per i defunti, il termine stesso che definiva la messa per i defunti proveniva da un testo apocalittico, l'Apocalisse di Esdra, che evocava insieme la pace e la fine del mondo. Requiem eternitatis dabit vobis, quoniam in proximo est ille, qui in finem seculi adveniet. Allora, vi darà la pace eterna, perché è vicino colui che viene alla fine del mondo. Alla fine del tempo, scusatemi. Vi darà la pace eterna perché è vicino colui che viene alla fine del tempo. L'abolizione del Dies Irae nel 970 va insieme all'abbandono di ogni istanza escatologica da parte della Chiesa, che si è in questo modo del tutto conformata all'idea di un progresso infinito che definisce la modernità. Quindi aggiungo io, diciamo, l'età della tecnologia, insomma, il dominio della tecnica. Ciò che viene lasciato cadere senza il coraggio di esplicitarne le ragioni, il giorno dell'ira, l'ultimo giorno, può essere raccolto come un'arma da usare contro le viltà e le contraddizioni del potere al momento della sua fine. È quanto intendiamo qui fare, provandoci a celebrare senza intenzione parodica, ma al di fuori della Chiesa, che appartiene al numero dei defunti, una sorta di funerale abbreviato per l'Occidente. Ecco, qui incomincia Dies Irae, Dies Illa, solvet seculum in favilla, teste David cum Sibilla. Però adesso vi leggo direttamente solo le traduzioni. Giorno d'ira, quel giorno distruggerà il mondo nella cenere, come testimoniano Davide e la Sibilla. Di che giorno si tratta? Certamente del presente, del tempo che stiamo vivendo. Ogni giorno è il giorno dell'ira, l'ultimo giorno. Oggi il secolo, il mondo, sta bruciando e con esso anche la nostra casa. Di questo dobbiamo essere testimoni, come Davide e come la Sibilla. Chi tace e non testimonia non avrà pace né ora né domani, perché appunto la pace che l'Occidente non può né vuole vedere né pensare. Quanto terrore ci sarà quando verrà il giudice per giudicare rigorosamente ogni cosa? Il terrore non è futuro, è qui e ora. E quel giudice siamo noi, chiamati a pronunciare il giudizio, la crisi sul nostro tempo. Alla parola crisi, di cui non si fa che parlare per giustificare lo stato d'eccezione, noi restituiamo il suo significato originale di giudizio. Nel vocabolario della medicina ippocratica, crisis designava il momento in cui il medico deve giudicare se il paziente morirà o sopravviverà. Allo stesso modo noi discerniamo ciò che dell'Occidente muore e ciò che è ancora vivo, e il giudizio sarà severo, non si lascerà sfuggire nulla. Una tromba che diffonde un suono meraviglioso nei sepolcri di tutto il mondo chiamerà tutti davanti al trono. La morte e la natura stupiranno quando la creatura risorgerà per rispondere al giudice. Non possiamo far risorgere i morti, ma possiamo almeno preparare con ogni cura lo strumento meraviglioso del nostro pensiero e del nostro giudizio, e facendolo poi risuonare senza timore, liberare la natura e la morte dalle mani del potere che con esse ci governa. Sentire stupire in noi la natura e la morte, presagire qui e ora un'altra vita possibile e un'altra morte, è la sola resurrezione che ci interessa. Commento mio, ovviamente. Stupore, meraviglia sono gli stati d'animo, appunto, che la filosofia greca individuava come condizione di, diciamo, di in cui il pensiero filosofico può apparire. Verrà aperto il libro nel quale tutto è contenuto, e da quello il mondo sarà giudicato. Non appena il giudice sarà seduto, apparirà ciò che è nascosto, nulla resterà invendicato. Il libro scritto è la storia, che è sempre storia della menzogna e dell'ingiustizia. Della verità e della giustizia non vi è storia, ma apparizione istantanea nella crisi decisiva di ogni menzogna e ogni ingiustizia. In quel punto la menzogna non potrà più coprire la realtà. La giustizia e la verità manifestano infatti se stesse, manifestando la falsità e l'ingiustizia. E nulla sfuggirà alla forza alla loro vendetta, a condizione, eccetera, eccetera. Qua salto perché per me, insomma, è una distorsione del ragionamento. E io che sono misero, che dirò? Chi chiamerò in mia difesa? Se a malapena il giusto è sicuro. Il giusto che presta la sua voce al giudizio è in qualche modo coinvolto nel giudizio, e non può chiamare altri in sua difesa. Nessuno può testimoniare per il testimone, egli è solo con la sua testimonianza. In questo senso non è sicuro, è dentro la crisi del suo tempo, e non di meno pronuncia la sua testimonianza. Condannati maledetti, gettati nelle vive fiamme, chiama me tra i benedetti. Giorno di lacrime quel giorno, quando risorgerà dalla cenere l'uomo reo per essere giudicato. Benché l'inno sul giorno dell'ira faccia parte di una messa che chiede pace e pietà per i morti, il discrimine tra i maledetti e i benedetti, tra i carnefici e le vittime, è mantenuto. Nell'ultimo giorno i carnefici, come stanno ora facendo senza forse avvedersene, si confutano infatti da soli, lasciano cadere le maschere che coprivano la loro ingiustizia e la loro menzogna, e si gettano nelle fiamme che hanno essi stessi acceso. L'ultimo giorno, il giorno dell'ira, ogni giorno è per essi un giorno di lacrime, ed è forse proprio perché ne sono consapevoli che si fingono così sorridenti. Solo il consenso e la paura dei molti tiene in sospeso quel giorno. Per questo, anche se ci sappiamo senza potere di fronte al potere, tanto più implacabile deve essere il nostro giudizio, che non possiamo separare dal requiem che stiamo celebrando. Signore, non dare loro la pace, perché essi non sanno che cosa essa sia. E senza pensare alle parole. Le parole non servono a niente se nessuno si presta a ascoltare. E muovermi senza pensare alle parole. Le parole non servono a niente se nessuno si presta a ascoltare. Bene, teniamo in sottofondo questa band che sono i Labile, band bergamasca, dal loro album uscito nel 2010, Come il tempo. Siamo alla, in conclusione di questa trasmissione che ricordo è Zardins Magnetics, va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Udine di Radio Onde Furlane. È un programma che inizia alle ore 20, un programma che viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste, oggi 18 luglio 2004. Ricordo i nostri contatti come di consueto, ovvero se dovete scriverci tramite posta elettronica scrivete a liberetutti@autistiche.org, oppure potete anche scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questo programma, ma anche tutte le puntate passate, se appunto l'estate non vi passa e volete farvi del male, andate a cercare sull'internet Zardins Magnetics, zardinsmagnetics.ra, ormai lo so anche a memoria e lo continuo a sbagliare, insomma andate su in rete a cercare zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo proprio alla fine, ricordo che potete anche ascoltarci in replica domani alle ore 17 sulla web radio Radiazione. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì e vi lascio con questi Labile.